24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura, la decisione della BCE di lasciare i tassi invariati. La Banca Centrale Europea non ha concretizzato gli attesi interventi straordinari per domare la crisi del debito sovrano e la volata degli spread in Italia e in Spagna. Il punto con Sergio Nava, che ci racconta anche l'esito del tour europeo del premier italiano Mario Monti. Partiamo dalla decisione, appunto, o meglio dalla temporanea inazione della Banca Centrale Europea, l'atteso consiglio direttivo che ha mantenuto i tassi al minimo storico, ha dovuto incassare il freno imposto dalla Germania, rinviando a non prima di settembre nuove mosse a difesa dell'Eurozona. Draghi ha sì mantenuto alta la tensione, siamo pronti a interventi diretti sui mercati, a misure non convenzionali, ha detto, menzionando la possibilità di riprendere i maxi prestiti alle banche e la revisione delle garanzie chieste agli istituti in cambio di liquidità, ma è mancata la misura immediata, tanto attesa. Draghi ha restituito la palla alla politica, avvertendo che i governi devono prima fare richiesta diretta ai fondi salva stati, accettando condizioni stringenti. La Banca Centrale Europea non può rimpiazzare i governi, ha spiegato il presidente della BCE, poi ha anticipato che Francoforte rinuncerà allo status di creditore privilegiato qualora acquistasse titoli di Stato, in modo da non scoraggiare gli investitori privati a comprare i bond dei paesi periferici. L'euro è irreversibile, ha ricordato Draghi, mentre i mercati però crollavano. Poche ore dopo a Madrid, Italia e Spagna facevano buon viso a cattivo gioco. Sentiamo subito il premier Mario Monti. Confermo che per quanto riguarda l'Italia, di aiuti perché il bilancio pubblico italiano abbia bisogno di soldi, grazie al cielo, non ce n'è proprio bisogno. Per quanto riguarda aiuti, se vogliamo usare questo termine, ormai considerato improprio, insomma, ma come dire, azioni di accompagnamento per evitare spread eccessivi nel mercato, ci riserviamo di valutare. Concetto chiaro quello espresso da Monti, ed escludere un salvataggio del paese, ma resta l'incertezza su una richiesta di attivazione dello scudo antispread da parte dell'Italia. Monti ha difeso l'azione di Draghi, vedo solo passi in avanti nella dichiarazione di oggi, e ha lanciato una frecciata ai mercati. Forse non hanno valutato appieno le frasi del governatore della BCE. Il premier si è anche augurato un'intesa rapida sulla vigilanza bancaria europea. Da parte sua il premier spagnolo Rajoy ha affermato di aver trovato aspetti molto positivi nel messaggio di Draghi. È tutto. Grazie a Sergio Nava. L'inazione della BCE ha influenzato pesantemente i listini. Mario Draghi gela i mercati che, dopo le parole del presidente della Banca Centrale Europea, invertono rotta per chiudere in profondo rosso. Ieri il governatore della Banca Centrale non ha annunciato quelle misure straordinarie che il mercato si aspettava dopo il discorso fatto a Londra nel weekend, ma ha solo ribadito che Francoforte è pronta a ogni intervento. Con l'ipotesi di misure straordinarie della BCE più lontane, le vendite si sono abbattute sulle borse e sui titoli di Stato periferici, con lo spread BTP Bund a livello decennale nuovamente oltre quota 510 punti base. Parigi e Francoforte hanno così lasciato sul terreno oltre il 2%, Madrid il 5%, Milano ha visto il FTSE MIB perdere il 4,64%. Crollano i titoli bancari con Intesa, BPM, Biper, UBI e Mediobanca, tutte con passivi superiori al 9%. Vanno KO anche le utility con A2A meno 9% ed Enel Green Power meno 7,3%, mentre regge solo il lusso con Salvatore Ferragamo più 0,9%. Nonostante i conti in crescita, pagano dazio anche Telecom Italia e Generali, che perdono oltre il 6%. Ciò Condina da Radio Core per Radio 24 e Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Le società telefoniche e gli internet service provider dovranno ora comunicare ogni violazione alle banche dati che contengono i nomi dei propri clienti. Lo prevede una direttiva europea recepita anche dall'Italia. Finora le notizie di violazione di database digitali erano quasi un'esclusiva degli Stati Uniti, dove esiste da anni un obbligo di comunicazione al pubblico. Ora questo obbligo riguarda anche l'Europa e l'Italia, grazie alla direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita nel nostro paese. Il garante per la privacy ha fissato una serie di regole che impongono alle società telefoniche, a chi ci fornisce il collegamento ad internet, e spesso le due società coincidono, di comunicare ogni violazione ai database che contengono dati dei clienti, dati che nell'era di internet e di servizi via web e di cloud computing crescono di giorno in giorno. Insomma, se un pirata informatico dovesse entrare nei sistemi per consultare, rubare o distruggere i nostri dati, le società dovrebbero comunicarlo al garante e al cliente entro 24 ore dalla scoperta dell'evento. Per le violazioni le sanzioni vanno da 25.000 a 150.000 euro, anche se per il garante non sarà facile scoprirle. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, ha presentato a Bruxelles il decalogo sui diritti e suggerimenti per il turista europeo. I diritti e le azioni UE a favore del turista, raccolti in 10 punti, riguardano la facilitazione della mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Ci spiega i dettagli lo stesso Antonio Tajani al microfono di Federico Taddia. Noi abbiamo presentato un elenco di diritti, ma anche con qualche dovere, perché chi viaggia in Europa e anche per gli europei che vogliono viaggiare all'estero sappiano come possono utilizzare al meglio la politica dell'Unione Europea. Innanzitutto ricordiamo che in tutta Europa vale per ogni emergenza il numero 112, che è l'emergenza europea. In Italia è il numero dei carabinieri, però in Europa vale per chiedere soccorso a tutti. In più esistono, per esempio, per i passeggeri a mobilità ridotta dei diritti, come quelli di essere assistiti, accompagnati quando salgono in aereo, quando scendono dall'aereo. Lo stesso discorso vale per i passeggeri a mobilità ridotta che viaggiano in treno. Devono sapere i turisti che il costo del roaming è stato ridotto di molto dal 1° di luglio, grazie a una decisione della Commissione europea. I turisti devono sapere inoltre che l'assistenza sanitaria è valida in tutta Europa per i cittadini europei e questo è già di grande aiuto. In più c'è anche il diritto ad avere una sorta di passaporto per gli animali da compagnia, il che aiuta le famiglie che hanno degli animali domestici a casa che non intendono lasciare durante il periodo delle vacanze, quindi anche un'azione a tutela degli animali. In più ci sono anche altri numeri che servono per avere delle informazioni più dettagliate da parte dell'Unione Europea su tutti quanti i diritti. Insomma, un vero e proprio vademecum per il turista che deve sapere come potersi muovere meglio e sentirsi anche tutelato. In più c'è un punto dedicato al dovere del turista, che è quello di non danneggiare il patrimonio che gli permette di trascorrere una buona vacanza, sia il patrimonio ambientale sia il patrimonio archeologico, storico che ha, il rispetto dell'ambiente e il rispetto inoltre delle regole di convivenza delle città dove intende passare le proprie vacanze. La Commissione UE ha lanciato un'applicazione per smartphone che spiega come servirsi della tessera europea di assicurazione malattia. In Italia quasi tutti la possiedono, ma in pochi saprebbero che farsene quando si trovano all'estero. Grazie alla nuova app, disponibile in 24 lingue, sarà possibile con pochi clic sapere come avere accesso alle cure mediche in 31 stati europei, i 27 membri della Unione Europea, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Quali sono i costi e come è possibile ottenere un rimborso? In linea generale, i titolari della TIM, appunto la tessera europea di assicurazione malattia, hanno diritto, in caso di infortunio o malattia, di accedere all'assistenza sanitaria pubblica al pari dei cittadini del paese in cui ci si trova. L'azienda farmaceutica italiana Recordati ha acquistato la polacca Pharma Project, 135 dipendenti, per circa 17 milioni di euro, interamente finanziati con la liquidità disponibile. Il mercato polacco è uno dei più interessanti d'Europa e negli ultimi 5 anni il mercato farmaceutico è cresciuto in media del 6,8% all'anno. In chiusura andiamo alle Olimpiadi di Londra perché non si parla in questi giorni solo di medaglie. Olimpiadi, un terzo dei giorni se n'è andato. Impossibile tirare già le somme, ma ci si chiede com'è andata con gli arrivi e il turismo. Se i londinesi sono prevedibilmente scappati dalla città, i turisti sembrano in realtà pochissimi e anche le gare difficilmente fanno il tutto esaurito. Secondo il Daily Mail, ci sono almeno 60.000 posti vuoti al giorno sugli spalti nelle arene di ogni disciplina. Sarà flop? Lo è stato sicuramente per il sindaco Boris Johnson. Voleva volare appeso a un cavo sopra la folla del Victoria Park. It's a very, very good idea. Can you get me a rope? ma è rimasto bloccato e per qualche minuto ha penzolato per aria prima di venir calato a mano da alcuni operai. Se al britannico conservatore Johnson è andata male, chissà come andrà allo statunitense repubblicano Mitt Romney, o meglio al suo cavallo. Rafalca, puro sangue di famiglia, debutta alla sua prima prova nelle gare di dressage individuale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.